stava parlando sempre lui e ha detto che si chiamava Virginia e stava parlando lui qua. Probabilmente forse, boh, non lo so, c'aveva lo squeccio, non lo so. Mentre anche domenica dicevano lo sentivo, boh, arriva 5-7 qua da me. Stavo sempre usando questa antenna che nuova che ho fatto per la 3x9. No, ma c'è un problema con B2, che siccome che domani per esempio che se sta andando a produttore, io lo sento sia un pezzo, poi quando inizia a entrare dentro il produttore se non lo sento più, capito? Sono cordiali, sei in clan a parte mia. Aspetta, B2, cos'è il Antone? Mandagli saluti da parte mia. Ma lo conosci, Antone? Già lo conosci, già lo conosci. Oh, B2, ti saluta Antonio Peter Pan. Va bene, quando vuoi io intanto guarda, domani sono a Sassari ugualmente, poi mentre venerdì vado a Cagliari, se magari se ci sentiamo domani diamo un'occhiata, prendiamo un caffè, facciamo due chiacchiere e vediamo un po' come fare. No, bisogna metterla, caspita, ma scherzi. Hai visto qua nella micromachine, tutto piazzato alla grande, un bombo, dai, va bene. Allora domani, ciao, curati. Ciao Marco, ciao, ci aggiorniamo domani allora, vai. Antonio, riprendi. Ciao, mi sono venuto in centro all'apparecchio, Cosa? Ciao Marco, stavo dicendo, Samara mi saluta, in centro all'apparecchio. Già sceso dalla macchina. Chi è che ha detto attenzione? Ciao Gennaro, buonasera, ben sentito. E io mi dicevo ancora una decina di minuti e poi vado a cenare. E poi ci sentiamo sicuramente dopo, dai. Tutto a posto, Gennaro. intenzione di scendere a Cagliari, anzi domani mattina, visto che devo scendere di sicuro, consegnerò tutto a mano. C'è la fotografia autenticata? Me l'autentico da solo. Vabbè, allora tu sì che te diamo. Ma dove bisogna farla autenticare? Lì alla, allo sportello del comune? Bravo, cara. Tu ne sei più del diavolo, cara. Una più del diavolo ne sei. Tu una più del, di Dante, parlando in italiano. Pittina, che mi sei imprimo se Mosè quando è sceso dal Monte Sinai. Venditi zucchero filato, venditi zucchero filato. Attenzione che fa male lo zucchero filato, che ti cali i denti. E allora, ma si vede. Ma già così male t'ha fatto. Me lo risponde, cacchio, vuol dire che ha mangiato troppo. Direttamente, o procura il diabete o cali i denti. Potevo rispondere perché ero impegnato con due le mani a fare denti, gesti arcaici scaramantici. Con tutte e due le dita, con tutte e due le mani, dai, non esagerare. Beh, allora, ti lascio andare a fare un po' a lavorare, ma non riesco a mettere a letto i bambini, se gli ho una bella voce. Prescindere dal fatto che uno può vendere quello che le piace, comunque buonasera a tutti. Così mi piace, così. Ma quanto ti ha pagato, Cla? Avete rotto già le palle comunque, non sto scherzando. Oh, hai capito? Che mal di pancia che sta facendo, per carità, questo zucchero, per carità, io ancora non l'ho mangiato comunque. Ma è quello, evidentemente ti sei mangiato il bastoncino prima, io non mangio lo zucchero. Ma sei arrivato con quell'apparecchio che ho pagato 10 o 15 euro. Cosa? Un Intec FM 548 T6 non funzionante, se ce l'ha aperto bisogna se riuscire a metterlo a posto, poi non si è scacciavitato se non è inutile mettere di mano. Claudio, vediamo, non mi abbandonare così, dai due bordate e tenici, non è da te. Oh, Massimiliano, dimmi. Ciao Claudio, buonasera a tutti. I vecchi Intec, no? Non quelli nuovi, i vecchi Intec, l'aggancio, quello che tu ti ricordi, il connettorino del microfono, aveva le stesse piedinature di quello di adesso, oppure dell'altro, tipo il Texas e quella roba là? Texas era della Lafayette. Dovrebbe aver mantenuti uguali con quello odierno, le connessioni. Comunque se fai su Google le trovi, perché mi è capitato quando ieri o l'altro ieri che stavo cercando altro e mi sono imbattuto su una pagina dove c'era il tutte le connessioni, tra cui anche dei baracchini di vecchio stampo. SX, non si trova ancora. No, credo che il vecchio si riversa a quello nuovo, perché ho quello di Antonio che mi ha prestato. E c'è il microfono originale, e ho dovuto invertire i fili per farlo funzionare con quello della Fayette. Adesso c'è il microfono originale della Fayette, mettendolo qui, vabbè, non c'è audio, sicuramente non so che gli può essere successo, lo sto controllando, però comunque va, quando schiaccio con questo va in trasmissione, anche se poi non va in trasmissione, però si accende il LED rosso, mentre con l'altro non si accende nemmeno. Quindi non vorrei che abbia convertito le piedinature con i nuovi apparecchi, facendo un'occhiata. Comunque se fai una ricerca in rete già lo trovi, la piedinatura, senza problemi. Allora, ritorno un attimo nel stand by che rimetto tutte e due le mani sulla tastiera. Torno a battere. Batti, non so cosa stai battendo, ma batti. Sì, l'ho trovato anche, ho trovato qualcosa cercando per il mio. dovrebbe essere qualcosa, no? Abbastanza semplice anche da trovare. Ma Piazza Università è zona traffico limitato, che tu sappia? Mi sa tanto di sì. Ecco, schema elettrico credo di averlo trovato. Da molte ore lo salutiamo. Solo vedi quelle fotografie nei codi, un cagliente con quello salto. Sempre che non mi racconti. Aspetta un attimino che sto cercando di decifrare che cacchio stanno facendo qua, un attimo. E stai tanto contigo. Claudio. Oh. Ci sei, sì. Sì, sì, sono qua. Dimmi. Ah, ti sta chiamando Gennaro. Ma sto mangiando. Buonasera, Claudio Spartiero, hanno intendi i nomi? Ui. Aspetta un attimo. Non ci stanno problemi. città Lucine, di città Padre Lima, non avevo capito. No, non avevo capito la battuta. Non avevo capito la battuta. Cosa c'è, Gennaro? Cosa c'è? Non lo senti, Antonio, tu cosa c'è? Problemi. Gennaro, vieni avanti. sua, qualche cosettina mia, insomma, di così qua a Sassari, ma non, non ne ha di laboratorio, capito? Per fare le radio ci vogliono gli strumenti, non si possono fare la radio, gestire la radio senza strumenti, Gennaro. Ma mi ha regalato. No, ho capito, no, Gennaro, cosa hai detto? Ci vogliono i soldi, Gennaro, ci vogliono i soldi, capito? Ci vogliono i soldi, l'attrezzatura, il locale, e la persona che sa riparare la radio, non particiore. Tu ci vuoi i soldi, metti i soldi, facciamo associo con te, e tu sei bravo a riparare la radio. Rompi i coglioni, sei bravo. Diciamo che ti occupi di che cosa? Tu sei bravo a aggiustare la radio, perché quando si fa una società non è che uno deve stare a guardare, deve fare la stessa cosa che fa l'altro. Se tu sei bravo a riparare la radio, facciamo una società e ripariamo e ce la vendiamo. Bene qua, a Napoli non ce n'è di traffico. Ora voi siete buoni, c'è la radio. Esatto. Nessuno è nato imparato, cioè no. Basta studiare, documentarsi e uno si applica, capito? Comunque Fabrizio è già bravo, tu chiedi a lui e vedrai che risolvi il problema. Ragazza tua, veniamo a trovarti, va bene? Oh, quindi la sua cammina più della mia, quella è già così, è già turbo, cosa lo vuoi fare? Facciamo diventare turbo, ma se è già turbo, cosa facciamo? Non facciamo niente, capito? Comunque ci proviamo, dai, le mettiamo questo filo, vediamo se si allunga l'onda, e se no aspettiamo il maestrale. Thank you. dice Guaretto ha fatto lo Benfica, comunque già no, non ci sono problemi, dai, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Per strada, no? E l'antenna dov'è? Yeah. chiesto, ma con un casino, un gà. Già lo so che è così. Però non fa, non si può usare a quest'ora a fare bordello, capito? Non si può usare, fa troppo chiasso, fa troppo chiasso, non va bene. Ma non c'è nessuno in questo canale. Crode, ci si, crode. Sua madre. Sì, mamma sì. Mamma di Porto Torres, mamma è Falchi in cognome. Capito? Che fa? Comunque, no, invece è qua. Da una parte della Gallura e dall'altra parte è Sassarino. Ma tu lo sai che abbiamo qualcosa in comune? Mio padre, oltre ad avere due officine e due negozi di ricambi non grandi, perché in quegli anni non è che si poteva fare tanto, però c'aveva un bel negozio di autoricambi, era concessionario Michelin per tutta la Sardegna. Era però il suo vero lavoro, era direttore della Butangas, lo sai tu. Mio zio, fratello di mio padre, ancora oggi è morto, però l'azienda la mandano avanti i figli, Martigas alla Pietraia, all'entrata di Alghero. Martigas, quelli sono i figli del fratello di Babbo, e c'è un negozio grandissimo. Sono concessionari Piaggio, proprio perché hanno un negozio attrezzatissimo di campeggio, di attrezzatura da pesca e tutto. E in più hanno la rivendita delle bombole. Capito? A Verghero. Scappa. Ma adesso cos'è? Un tipo grosso, Chi? Quello che consegna. Massimo e Fabio c'hanno la pezza tua. Angelo, il padre, c'ha più o meno la pezza mia, diciamo, mentre zio Salvatore, fratello di Babbo, era uguale, gemello a tuo padre, stessa pezza, uguale, preciso. Che la fa? Anche perché loro mi hanno raccontato. Siccome c'è quello di Sorso che sta sempre rompendo le palle, il Suzu 5, gli dico una volta, uno di chi si l'ha appassionato, e ha detto non tornare in più. I monellini sono i miei cugini, non sono col dito in bocca, Il Salvatore era cattivo, no, Angelo figlio già è buonaccione, però già è rompipalle anche lui, ma era un po' più alto di me, un po' più grosso, con i baffetti, qualche giorno ti faccio le fotografie. Faccio le fotografie. Era direttore della Butangas, capito? A Porto Torres. In più c'aveva l'autorizzazione che aveva dato al fratello per la rivendita delle bombole che ancora oggi ce l'hanno. Ad Alghero però, Martigas, la Pietraia. Proprio in famiglia, cugina di mio padre che le porta lì a Castel Sardo. Non so se l'hai mai sentito, corso. Io lo conosco anche, ci ho fatto un paio d'anni a Castel Sardo, lavorando, capito, al portabilizzatore. Ce l'ha portato lui la bombola all'impianto, lì sotto il baga baga. Qui c'è il cugino di mio padre, e la mamma e la madrina, la madrina di Batto, ti puoi immaginare? Lo so, quei tempi ancora, bei tempi, ci picchiano, vabbè. C'è qualcuno che vuole entrare nel canale 10? Certo. Praticamente è il fratello di mia nonna, capito? Il padre, che pure lui portava le bombe lì a Castel Sardo, la legna e cosa. E quello lì è il figlio. Ci sono, Gennà, stavo parlando con Antonio, dimmi. Yeah. sentiamo domani.